L'orso e il giardiniere da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Un orsacchiotto assai mal pettinato, selvatico, cresceva in fondo a un bosco, solo, nascosto, sempre torvo e fosco, in collera col fato. Novel bell'oro fonte, l'umor nero s'univa a una tremenda ipocondria, perché solo la buona compagnia ti anira il pensiero. Un bel parlar non vale un bel tacere, sta scritto, ma bisogna discrezione, e in quel bosco un uomo, un can barbone, non si faceva vedere. Per quanto orso e per quanto orso testardo, passava giorni orribilmente bui, non lontan s'annoiava in un con lui un vecchierel gagliardo, che amava in un suo giardin i fiori, il sole, prete di Flora e prete di Pomona, ma non vedea passare una persona da far quattro parole. Le piante e i fior non parlano al di fuori di questo libro che per voi trascrivo. Desiderando un dì vedere un vivo, lasciò le piante e i fiori. E sul mattin, battendo la campagna, andava in cerca d'una comitiva, quando incontrò quell'orso che veniva torvo dalla montagna. L'orso teneva in mezzo del cammino, che far, come scappar e da quale parte? Il vecchierel si ricordò dell'arte che piace ad Arlecchino, e fingendo un coraggio di leone, «Buon passaggio!» gli dice. «Schiavo tuo!» l'orso risponde in tono tutto suo. «Vedo che stai benone!» «Sì, grazie a Dio, signor commendatore, se vuole accomodarsi in casa mia, ho latte, cacio, noci ed offriria di più con tutto il cuore. Capisco, non è roba forse adatta a lor signori, tuttavia, se vuole...» L'orso accetta, si siede e in due parole l'amicizia fatta. «Sono i sciocchi che ciarlano, ma l'orso è saggio prudentissimo. Non teme il vecchierello di mangiare insieme e di far qualche discorso senza togliere il tempo alle faccende. L'orso, in compenso, forte cacciatore, uccide lepri e docile il servitore, caccia dal volto, prende sopra il vecchio, che dorme quell'alato parassita, che noi mosca diciamo, tenendo nelle zampe un grosso ramo, fedel come un soldato. Un dì che il vecchio in l'ora consueta dormiva, ecco una mosca più stizzosa che sul naso più volte gli si posa, e l'orso si inquieta. Poi perde la pazienza ed un mattone afferrato s'appressa, il pugno chiuso dov'è la mosca e plaf, proprio sul muso, la schiaccia del padrone. Così l'orso mostrò che un cacciatore non è sempre il miglior ragionatore e che peggior d'un leal nemico è un ignorante amico. Fine della favola. L'orso e il giardiniere. Questa registrazione è di dominio pubblico.